Ulrike. Meinhof. Femmina. Divisa dal marito. Due figli. Ulrike. Meinhof. Femmina. Divisa dal marito. Due figli. Ulrike. Meinhof. Femmina. Divisa dal marito. Due figli. Ulrike. Meinhof. Femmina. Divisa dal marito. Due figli. Ulrike. Meinhof. Femmina. Divisa dal marito. Due figli. Ulrike. Meinhof. Femmina. Divisa dal marito. Due figli. Ulrike. Meinhof. Femmina. Divisa dal marito. Professione. Giornalista. Nazionalità. Tedesca. Sono qui rinchiusa da 4 anni. In un carcere moderno di uno stato moderno. Reato. Attentato alla proprietà privata e alle leggi che difendono la suddetta proprietà e al conseguente diritto dei proprietari di allargare a dismisura la proprietà di tutto. Tutto. Il nostro cervello, i nostri pensieri, le nostre parole, i nostri gesti, i nostri sentimenti, il nostro lavoro e il nostro amore. Tutta la nostra vita, insomma. Vi ringrazio. Mi avete gratificata del più duro carcere, gelido, asettico, da obitorio, e mi sottoponete alla più criminale delle torture, privazione del sensoriale. Mi avete seppellita in un sepolcro di silenzio. Un silenzio. Bianco. Bianca è la cella. Bianche le pareti. Bianco il soffitto. Di smalto bianco perfino la porta, il tavolo, la sedia e il letto. La porta, il tavolo, la sedia e il letto, la porta, il tavolo, la sedia e il letto, la porta, la sedia, il letto e il tavolo, il letto, la sedia e la porta, il tavolo, la sedia e il letto, per non parlare del cesso. È bianco anche quello. La luce al neone è accesa sempre, giorno e notte. Qual è il giorno e qual è la notte? E come posso saperlo? Dalla finestra passa sempre la stessa luce bianca. Una luce finta, come è finta la finestra. E finto è il tempo che mi avete cancellato. Silenzio. Tutto silenzio e bianco. Silenzio nel mio cervello, bianco come il soffitto. Bianca la mia voce se provo a parlare. Tutto silenzio e bianco nei miei occhi, nello stomaco, nel ventre che si gonfia di vuoto, come in un acquario, come un pesce giapponese senza pinne a ventaglio, io mi trovo sospesa. Sensazione perenne di vomito. Il cervello mi si stacca dal cranio al rallentatore, vagando per l'acqua di luce nella stanza, di polvere bianca come detersivo nella spaventosa lavatrice a tutto il mio corpo. Lo raccolgo, lo ricompongo. No. No. Voi non riuscirete a farmi impazzire. Io devo resistere, io devo pensare, voi non riuscirete a farmi impazzire. Devo pensare. Devo pensare a voi. A voi devo pensare, a voi. A voi che mi tenete chiusa qui dentro. Voi temete che io sappia resistere. Voi temete che altri come me, i miei compagni, tornino a cercare di guastarvi il bel mondo che vi siete costruiti voi. Voi ostentate tanta sicurezza, ma è soltanto la grande paura che vi fa così crudeli e pazzi. È la paura del silenzio che imponete a me. Io non sono d'accordo con la vostra vita. Io non voglio essere una delle vostre donne confezionate sotto cellofan. Io non voglio dovermi sforzare di essere quel tanto triste e ammiccante. E poi pazza e imprevedibile, poi materna e puttana, e poi all'istante ridere in falsetto ad ogni vostra immancabile trivialità. Poi vi preoccupate. Vi preoccupate che non mi salti in testa di suicidarmi. Aspetta a voi decidere. Quando sarà il momento giusto, lo deciderete voi. Mi darete l'ordine di impiccarmi. Ma poiché in questa cella non ci sono sbarre a cui appendere un lenzuolo torto e una cinghia e quindi impiccarmi, mi darete una mano voi. Ho anche più di una mano. Un lavoretto pulito. Nessuno sentirà un mio grido o un mio lamento. Tutto sarà fatto in silenzio, con discrezione, per non turbare i sonni sereni dei cittadini felici di questa nazione pulita e ordinata. Dormite. Dormite. Gente pasciuta e attonita della mia grande Germania. E anche voi dell'Europa, gente ben pensante, dormite. Sereni. Come morti. Il mio grido non vi può svegliare. Non si svegliano gli abitatori di un cimitero.